Europa 24. Buongiorno a tutti e buon pomeriggio da Daniele Biacchesi. La Commissione europea valuterà se accordare all'Italia la flessibilità per le spese per i migranti in primavera e la valutazione si farà caso per caso. Soprattutto così ha parlato un portavoce della Commissione europea rispondendo a chi gli chiedeva se Bruxelles risponderà questa settimana, come auspicato dal premier Renzi dopo l'incontro con la Merkel, alla richiesta di flessibilità sui migranti. E ora il cosiddetto Brexit. Non c'è accordo tra Gran Bretagna e Unione Europea. Ancora una fumata nera tra Gran Bretagna e Unione Europea per scongiurare l'ipotesi di una Brexit. Nessun accordo è stato raggiunto, infatti, ieri sera durante una cena di lavoro tra il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il premier britannico David Cameron. Quest'ultimo da tempo chiede concessioni nell'ottica di un maggior decentramento dei poteri di Bruxelles in cambio della permanenza del suo paese in Europa. Sul piatto c'è il blocco per 4 anni dell'accesso ai benefici del generoso welfare britannico che Londra vorrebbe imporre ai lavoratori non britannici. Un blocco che verrebbe inteso come una sorta di meccanismo di salvaguardia che permetta alla Gran Bretagna e a tutti gli altri paesi europei di frenare l'accesso al welfare nel caso in cui fosse dimostrato che il sistema è sotto stress. Londra vorrebbe introdurlo senza limiti di tempo e subito dopo il referendum sulla Brexit. L'obiettivo di Cameron è quello di scoraggiare i flussi migratori per tener fede alla promessa fatta agli elettori di ridurre l'immigrazione netta al di sotto dei 100.000 individui l'anno. Ma Bruxelles pone 3 condizioni che dietro l'introduzione della salvaguardia ci sia una situazione eccezionale come gravi squilibri di bilancio, che ci sia il voto dei 28 paesi membri e che non ci siano compromessi sulle libertà fondamentali. Ma intanto gli sforzi per trovare un'intesa continuano, le parti si sono concesse altre 24 ore di confronto prima che l'Unione Europea metta sul tavolo, probabilmente domani, le sue controproposte. Un accordo deve essere necessariamente raggiunto entro il vertice europeo del 18 e 19 febbraio affinché Cameron possa convocare il referendum già entro l'estate. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E in Europa si fa avanti l'idea di concedere lo status di economia di mercato alla Cina, ma non tutti sono d'accordo. È sempre più acceso il dibattito sui futuri rapporti economici tra la Cina e l'Unione Europea. Entro la fine del 2016 Bruxelles deve decidere se concedere o meno lo status di economia di mercato al gigante asiatico. Una decisione positiva comporterebbe un allentamento delle difese commerciali europee nei confronti di eventuali operazioni di dumping cinese. Non sorprende quindi se molti sono contrari a concedere lo status alla Cina. Le associazioni imprenditoriali hanno preso posizione da tempo, criticando eventuali cambiamenti e notando che concedere a Pechino lo status di economia di mercato metterebbe in grave difficoltà alcuni settori industriali e provocherebbe disoccupazione. Sostengono che l'economia cinese è ancora molto sussidiata dalla mano pubblica. Anche molti deputati europei si dicono contrari, come i popolari e i socialisti. I 28 sono tendenzialmente freddi, salvo i paesi scandinavi e la Gran Bretagna. La questione non è solo economica, ha implicazioni anche politiche. L'Unione Europea deve tener conto nel prendere la decisione finale delle possibili ritorsioni cinesi in un momento in cui il gigante asiatico è un enorme mercato per l'export europeo. Veda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Quando sono le 14:05, vi saluta qui Daniele Biacchesi, vi ricordo che Europa 24 torna questa sera puntuale su Effetto Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.